Per iniziare questa discussione vorrei specificare che l'obiettivo un po' dell'incontro di oggi non è tanto fare la commemorazione, la ricostruzione puntuale, rivista degli avvenimenti di quello che è successo 20 anni fa, ma ugualmente non vorrei nemmeno soffermarmi, casomai ne parleremo, su un'opera di mettere all'analisi, a criticare quell'enorme movimento di massa internazionale che è stato il movimento Nol Global da moltissime anime e da moltissime prospettive. Penso che ci si debba soffermare e affrontare soprattutto alcuni nodi politici che saltano fuori dalle giornate di Genova, che abbiamo cercato di richiamare nella convocazione di questo incontro, cioè questo fatto di quello che è avvenuto come affermazione di quello che è la democrazia, esistenza della democrazia rappresentativa borghese e non la sua negazione. Questo, diciamo, è il cuore centrale di quello che noi vorremmo discutere oggi, perché è un tema che riguarda questo della democrazia e quindi dello Stato e della violenza, tutti coloro che intendono o che si stanno ponendo allo stato di cose presenti. È di questo che vorremmo proprio poi eventualmente soprattutto favorire la discussione, possibilmente. Prima di entrare proprio nel merito, però consentitemi una digressione perché io almeno sono abbastanza disgustato da quello che sto sentendo in TV e sui media, sui fatti di Genova, perché vengono fatti parlare sempre gli esponenti della sinistra istituzionale, parastituzionale, quantomeno nei canali e negli apparati del centro-sinistra, quando viene fatto parlare qualche ex partecipante dice le stesse cose, in realtà non vengono fatte emergere anche alcune cose, non dico fondamentali, ma che sono anche interessanti per capire quello che è avvenuto e quello che è successo e l'eredità che ha lasciato. E volevo solo ricordare, prima di cominciare, il fatto che c'è ancora chi è in prigione per i fatti di Genova. Nella fattispecie Luca Finotti, che è stato condannato a 10 anni per devastazione e saccheggio, per i fatti di cui stiamo parlando, che stava scontando, finendo di scontare la pena presso una comunità cosiddetta di recupero, dal settembre 2019 è stato rimesso in carcere poco tempo fa, neanche un mese fa, e dovrà rimanerci fino alla fine del dicembre 2022. È stato rimesso in carcere perché, secondo i responsabili del centro La Tenda di Cristo di Cremona, in diverse occasioni avrebbe violato le regole. Ultima cosa che avrebbe violato, quello di ricevere un pacchetto di tabacco da un visitatore non autorizzato dal centro stesso. È stato preso e rimesso in carcere, almeno questa è la motivazione che ho visto sulla stampa, ma soprattutto preme ricordare che questo compagno è stato poi arrestato successivamente ai fatti, aspettati vari gradi di giudizio, è finito dentro e sulla base di una motivazione che è devastazione e saccheggio, che se non sbaglio deriva dal codice Rocco, che prevede 15 anni per la prescrizione. Giova ricordare che di tutti i poliziotti accusati e condannati a Genova nessuno abbia fatto mai carcere, sono quasi stati tutti pressoché prescritti e poi è finita l'interdizione dal pubblica amministrazione, pubblici uffici, ad eccezione forse di due che erano accusati di falso ideologico per l'introduzione delle Molotov alla Diaz, Molotov per dimostrare che c'erano dentro. Tutti quanti i poliziotti hanno fatto carriera dentro, come si dice, gli organismi di polizia stessa o fuori dalle forze dell'ordine, come ad esempio De Gennaro, che è arrivato alla Finmeccanica, o alla Leonardo e così via, adesso non sto a raccontare, però volevo solo ricordare a questo. Diciamo che tornando al fulcro un po' di quello che è l'incontro, quello che a me sembra di si possa dire che oggi sono proposti come centrali nella ricostruzione degli eventi di Genova di 20 anni fa, nella riscrittura che viene fatta di quella che malamente possiamo definire sinistra, 300.000 virgolette, uno, che i fatti di Genova si produssero per la presenza dei fascisti e dei parafascisti al governo e nelle istituzioni, grazie a Forza Italia e Alleanza Nazionale, due, che le violenze della polizia vennero originate da quelle dei Black Blocs e che la polizia avrebbe addirittura lasciato agire senza intervenire questi Black Blocs o addirittura avrebbe organizzato le loro azioni secondo una serie di varie pararicostruzioni. Terzo, che i fatti di Genova furono una temporanea sospensione della regola democratica e del vivere civile. Questi punti da ricostruzione penso vadano affrontati proprio per entrare al cuore della questione. La prima cosa direi che, senza scordare il ruolo giocato allora da Fini, vicepresidente del Consiglio, da Scajola, da ministro degli interni, che nei giorni precedenti ai fatti andarono a galvanizzare la polizia nelle caserme e a incitare alla repressione, la repressione di Genova 2001 non nacque quei giorni lì, ma ci arriva da prima. Ci arriva da prima non solo con un percorso già fatto anche dai governi di centrosinistra, dai governi democristiani, di blindatura del sociale, di progressiva chiusura degli spazi di agibilità politica e sindacale nel corso del tempo, ma anche strettamente dal punto di vista immediatamente di gestione della repressione. Ci si arriva dopo la violentissima repressione della manifestazione contro il Global Forum di Napoli del 17 marzo di quell'anno, del 2021. In quell'occasione la polizia scelse la gestione dell'ordine pubblico in piazza, chiudendo la tradizionale via di fuga che viene lasciata ai manifestanti e arrivando a un pestaggio violentissimo dei convenuti. In questo modo, con questi atteggiamenti, con queste scelte della gestione che si andava profilando della piazza, viene preparato quello che poi sarà Genova. Il testimone viene passato dal centro-sinistra al centro-destra. Centro-sinistra era stato il governo Amato, ministro degli interni era Enzo Bianco, ministro della giustizia, ricordo, era Piero Fassino, lo stesso Di Liberto, che era ministro, fu quello che riorganizzò i GOM, i gruppi operativi mobili delle guardie carcerarie, che ebbero un deciso ruolo allora a Genova e hanno tuttora all'interno delle carceri. La mattanza che avviene in stile sudamericano viene poi condotta dal governo Berlusconi, ministro degli interni Scajola, ministro della giustizia Castelli, vicepresidente, ma all'interno di un percorso progressivo che ha portato questo, di continua blindatura sociale, chiusura degli spazi di agibilità politica e sindacale, di attacco a tutto quello che fuoriusciva dalle regole della concertazione. Un primo segno anche di questo, di quello che avviene, se non si vuole coprirsi gli occhi, è che la repressione di piazza che ci fu in quei giorni colpì tutti i manifestanti, indistintamente, tra virgolette, anzi forse andò a colpire molto di più quelli che erano pacifici, quelli che erano inermi, quelli che non erano disposti o preparati a difendersi dalla violenza poliziesca. E non fu invece una risposta errata a violenze da settori delle manifestazioni o di cattiva gestione. Una gestione di piazza preparata, da quanto ho richiamato prima, dalle analisi che circolavano dei servizi e dalla polizia fatte nei giorni e nei mesi precedenti, ancora esistente l'altro governo, sulla pericolosità del movimento No Global, se qualcuno se lo ricorda, venne diffuso qualche giorno dopo un'informativa di una ventina di pagine della Questura di Genova che parlava di tutti i cosiddetti blocchi nero, blu, giallo, rosa che venivano dalle varie città, quante persone con i pullman, di quello che potevano fare. Venne messa dentro anche la carta che ci devono essere Forza Nuova e così via, e viene preparato da questo contesto. Prima governo di sinistra, di centrodestra, governo di centrosinistra, scusate, governo di centrodestra poi, e parte una cosa che è spaventosa di repressione e di rappresaglia nei confronti dei manifestanti, perché quello che avviene è non solo l'uccisione di Giuliani in piazza Alimonda, sono cariche ripetute e continue. Io non so a voi, ho un'età che sono uscito anche da altre cose, dal 77 eccetera, però cose del genere io non me le ricordo da allora. Mi ricordo il sabato, non mi era mai capitato di vedere gli elicotteri alle manifestazioni, ma di vedere a Punta Bagno, mi sembra che si chiama, alla fine del Corso Italia, l'elicottero che si abbassava e che ci tirava con i lacrimogeni a 150 metri d'altezza, non mi era mai capitato, facendo il tiro a segno su una manifestazione che in quel punto lì era sostanzialmente pacifica, o vedere i gommoni che tendevano a muoversi sul lungo mare e fare la scena di sbarcare. A questo ci aggiungiamo la cosiddetta perquisizione alla Diaz, la Bolzaneto e quello che avviene nelle carceri, con la tortura diffusa, la violazione sistematica dei diritti. Questo è un dato di fatto di quello che è avvenuto, dei diritti umani ad ogni livello. Rappresaglia, intimidazione, non è stato un errore di gestionale da parte della polizia, è stata una scelta. Avevano dietro un governo, una preparazione che ha dato questo tipo di impressione. Siamo avuti una repressione di Stato violenta, premeditata. Non è stato un errore, non è una perdita di controllo. La Diaz, Bolzaneto e tutte le piazze di Genova sono stati terrorismo di Stato per lanciare un messaggio forte e chiaro. È meglio che ve ne stiate a casa, che non protestiate. Lo Stato era preoccupato a livello italiano e gli Stati a livello internazionale da questo movimento no global, al di là dei giudizi di merito che possiamo dare. Ma da Seattle in poi c'erano state agitazioni, manifestazioni anche violente, tentativi di entrare in questa zona rossa, tutto quello che vogliamo, dava preoccupazione. Si è voluto dare un segnale di repressione preventiva, di controrivoluzione preventiva, di andare giù con una violenza come non si era mai visto prima. Ovviamente questo è il cuore di quello che è avvenuto, non entro nel merito degli eventi fisici in sé che sono noti. Mi preme ricordare una cosa che serve alle altre valutazioni. La repressione della polizia in piazza ha innescato una resistenza corale e di massa tra i manifestanti, al di là della volontà di quelli che sono stati gli organizzatori, dei piccoli gruppi che erano venuti con questa idea, ma la gente ha risposto. Tralasciamo il discorso errori gestionali di chi sognava di entrare nelle zone rosse o cose del genere con le forze che c'erano, ma la gente non ne poteva più in quel contesto e ha in qualche modo risposto. E piccolo anche insegnamento, chi non ha risposto li ha presi di più, è stato massacrato. Si vede 100.000 filmati di gente inerme che alza le mani, che viene massacrata violando tutte le regole. Ovviamente lì è successa una grossa cosa dal punto di vista della valutazione. È stata la comparsa anche in Italia dei Black Blocs, un paese in cui c'è una grossa tradizione di stalinismo nel lanciare accuse di vario genere a chi si muove, un settore all'interno del movimento che adesso la faccio molto breve, la possiamo poi anche discutere, tende a ridurre l'azione politica agli scontri di piazza, al momento dello scontro. Un'impostazione che abbiamo rivisto in altre occasioni, che io penso sia strategicamente perdente, che non si pone il problema di organizzare le masse, tra virgolette, normali, ma vuole galvanizzare e organizzare solamente i compagni che hanno già capito, che non riesce a porsi il problema di un lavoro che può essere molto pedissequo, molto difficile, molto poco gratificante giorno per giorno all'interno del proletariato per organizzarlo sul piano sindacale e politico, ma non è una cosa che è stata, come si vuole raccontare, gestita dalla polizia facendoli fare quello che volevano e poi potevano intervenire, o peggio, organizzata dalla polizia stessa. Cose del genere si sentono ancora oggi e si dice che c'è questa cosa, il famoso chi vi paga, chi vi dà i soldi per fare queste cose, che ci siamo sentiti per tanti anni. Noi dobbiamo sapere, penso che sia elemento di discussione, che all'interno di quello che si muove c'è chi pensa di poter risolvere la situazione attuale preminentemente con gli scontri di piazza. È una tendenza che è politica, che presenta il movimento, un soggettivismo di questo genere, ma è un problema politico da affrontare. I complotti che spiegano sono un'imbecillità per arrivare a una tesi di fondo, dire che lo Stato è l'unico che ha diritto a usare la violenza, ce l'ha anche contro i manifestanti cattivi e violenti. E parliamo ancora, giusto per riprendere una roba e ricordare, i black bloc potranno avere distrutto vetrine, bancomat, eccetera. Le accuse nei loro confronti con questa norma del codice Rocco, e non solo, sono quelle di devastazione e saccheggio, che vengono date a chi è presente, non a chi è preso con le mani in pasta. La tortura, i reati ascritti ai poliziotti arrivavano a 3 anni massimo di prescrizione e hanno ammazzato uno, violato tutte le leggi di questo Stato in termini di sicurezza degli arrestati, diritti democratici e così via. Quindi è su questo che noi dobbiamo calibrare e capire la cosa. Voi si vuole dire che la polizia può aver gestito lo Stato, le azioni dei black bloc. Perché no? Lo Stato lo fa sempre, ha sempre gestito le manifestazioni, ha sempre cercato di ribaltare le situazioni, ci ha sempre messo gli infiltrati tra i black bloc, tra le tute bianche, tra di noi, tra chiunque. È una storia che esiste, ma i movimenti sociali e le dinamiche non si creano semplicemente perché li vuole fare la polizia. Se dovessimo fare esempi storici di vecchio dato, si ricorderà qualcuno il famoso movimento rosso di Pop e Gapon, che era una cosa creata dall'OCRA, la polizia segreta zarista, ma nasceva da fenomeni reali, da realtà concrete. Allo stesso modo, per andare ad altri esempi, c'è chi gli piace ricordare come Hamas in Israele sia stata lasciata andare, se non anche foraggiata dallo Stato israeliano in funzione anti-NP. Tutto vero, però è anche vero che lo Stato israeliano ha fatto un programma per l'eliminazione fisica dei dirigenti di Hamas stessa, quindi bisogna capire la dialettica di queste cose. E penso che chiunque voglia dire, tiri fuori queste famose storie dei black bloc, è per ristabilire il fatto che solo lo Stato borghese è quello che ha il monopolio e il diritto all'esercizio della violenza, e tutte le dimostrazioni, immagini sono cavolate. Come ricordava, non mi ricordo dove, Cesare Bermani, storico della storia orale, non bisogna mai credere ai testimoni, e tutti quelli che dicono che i loro occhietti hanno visto i black bloc che arrivavano alla polizia che si ritiravano, lasciamo perdere. Devo dire, giusto per onore del vero e perché più che del vero di completezza, una digressione. In questo periodo c'è anche, non ha questa valenza assolutamente, c'è anche chi fa una ricostruzione un po' autoconsolatoria. Qualcuno che si racconta che alle fin fine, nei fatti di Genova, non le abbiamo solo prese, le abbiamo anche date. Spesso viene citato un episodio che è quello dell'attacco, anche questo tra 100.000 virgolette, al carcere di Marassi. Se non sbaglio avvenne il venerdì pomeriggio, prima dell'uccisione di Giuliani, mentre la polizia era impegnata e disposta attorno alla zona rossa, un gruppo di manifestanti si reca a Marassi, lancia delle molotov, distrugge la targa del carcere, e questo viene preso come uno degli esempi di dimostrazione che siamo di fronte un po' a un soggettivismo narcisista che si nasconde quello che è avvenuto. il grande arretramento che ha creato la repressione e quello che è successo, per tutta una somma di motivi, tra cui la repressione e così via. Però non possiamo raccontarci le cose. L'aspetto centrale che va ribadito è che lì c'è stata una violenza di Stato mostruosa nei nostri confronti. Ma quello che mi preme di più dire è che se è vero che sono state violate le leggi democratiche, che sono stati fatti dei trattamenti di questo genere, che sono stati calpestati i diritti umani con le torture di Bolzaneto, delle carceri, con la Diaz, allora, questo è avvenuto sicuramente stracciando le leggi democratiche, ma questa repressione è una delle facce che ha la democrazia. Quando occorre, quando viene ritenuto necessario, la democrazia passa sopra le proprie leggi, passa sopra le proprie norme e assolve i propri esecutori, salvo capri espiatori eventuali, che in questo caso non ci sono stati. Qui oggi si sente molto parlare di questa faccenda della democrazia violata, ma io vorrei ricordare che nel corso di questi anni, al di là delle menate sulla commissione paritetica d'inchiesta, eccetera, lo stesso centrosinistra non solo ha preparato la situazione, ma non è che si è intervenuto per cambiare, per far sì, non so, una delle proposte di legge che era tirata fuori era quella, diciamo, che i poliziotti fossero identificati con un numero, come avviene negli Stati Uniti. Non è che ho sentito il PD chiedere a gran voce questo tipo di cosa, per dire. Il centrosinistra è compartecipe di questa assenza di memoria reale di far pagare questo costo. E non solo, sotto i loro governi, come sotto il centrodestra, i responsabili politici e organizzativi sono stati premiati. E questo conduce a un dato di fatto, si ripropone. Santa Maria Capua Vetere sotto il Covid e le altre carceri sono l'esemplare dimostrazione della linea di continuità di questa gestione, che è andata avanti sotto i diversi governi, sotto diverse soluzioni. Ma tutto questo che avviene è sempre una cosa che noi non possiamo imputare, pur dando le colpe individuali, le colpe politiche che ci sono, le forze, quello che dicono, agli atti e le leggi che fanno, ma è una dinamica stessa intrinseca delle trasformazioni del dominio del capitale, della sua impossibilità di gestirla come prima. Le sue contraddizioni lo obbligano a mettere sempre nuove leggi, sempre nuove chiusure degli spazi in cui ci si può muovere. Cioè, faccio un solo esempio, per dire, la violazione delle leggi, delle proprie norme, dal 2001 in poi, e ci mettiamo che accennerò solo poi le due torri gemelle e quello che è successo, è diventata la norma e ci sono anche leggi che vanno a coprirlo. Un solo esempio, una legge che non è stata fatta dal centrodestra ma dal centrosinistra. Noi italiani abbiamo la possibilità di ricorrere a due gradi di giudizio. Per gli immigrati, che sono tra virgolette cittadini come noi, hanno diritto alla stessa legge, grazie a Minniti e al PD non possono più farlo. In caso di espulsione possono ricorrere una volta sola, prendere e andare. Quindi l'idea è che la normalità democratica viene sminata, viene piano piano distrutta, ridotta, vengono sempre più chiusi gli spazi. Qui siamo arrivati a situazioni come... non so, faccio il caso recente delle lotte dei facchini. Ci sono facchini denunciati per associazioni a delinquere per le lotte sindacali, questo anno. Ma una spiegazione di massima, parafrasando molto male Engels, che se non sbaglio è quello dell'origine dello Stato, della famiglia, eccetera. Lo Stato alla fin fine non è che una banda di armati, una struttura di carceri, quindi si arriva a questo, che deve servire a mantenere le contraddizioni quando non sono più governabili nei termini pacifici precedenti, nei termini che fanno impensierire. E questo modello e questa interpretazione ci deve essere d'aiuto per comprendere questo. Rispetto a Genova, noi non dobbiamo dire ci hanno distrutto la democrazia, noi dobbiamo dire la democrazia fa questo per assicurare il dominio, e come l'ha fatto allora lo farà domani, come l'ha fatto ieri lo fa domani e lo sta facendo oggi. voglio andare verso la chiusura, perché come sempre ho già parlato troppo. Quella repressione che è avvenuta ha contribuito a chiudere quel movimento, su cui ci sarebbe molto da dire. L'altro elemento che ha contribuito a chiederlo è stato le due torri gemelle. Le due torri gemelle del settembre 2001 hanno portato alla guerra permanente, alla guerra contro il terrorismo, a schierarsi con i propri stati contro il terrorismo islamista e così via, e hanno contribuito a creare il tipo di situazione in cui noi siamo oggi e a chiudere quella fase. Ma la chiusura di quella fase, se è scomparso quel movimento, non sono venute meno le ragioni alla base di quel movimento con le sue trasformazioni, perché prima di tutto la globalizzazione del capitalismo, non ha dato una fase duratura di riproduzione del capitale e di ciclo ascendente. Anzi, siamo entrati in una fase di precarietà sempre più permanente. E non solo. Dopo la crisi del 2008 e quello che è successo, non abbiamo visto né pace né sviluppo garantiti, e i governi oggi, alla vigilia di una probabile crisi analoga a quella del 2008, si stanno comunque orientando su misure keynesiane tramite il PNRR, il cosiddetto Recovery Fund, almeno a livello dei paesi occidentali, e hanno lasciato e lasceranno irrisolte le ragioni che riguardano il peggioramento globale delle condizioni di vita e di lavoro, il peggioramento delle condizioni climatiche fino alla distruzione, la guerra che continua, e ci aggiungiamo il Covid e la pandemia generata dalle condizioni di sfruttamento e di riproduzione. Detto questo, dal 2001 a oggi c'è stata quella repressione, ma i movimenti non si sono finiti. Da noi in Italia c'è stato, tra virgolette, meno, ma abbiamo visto uno sviluppo di movimenti a scala internazionale enorme, di vario genere, di vario livello. L'ultimo Black Lives Matter, ma poco prima c'era il Medio Oriente in fiamme con l'Iran, il Libano, l'Iraq, c'è stato il Sud America, prima ancora abbiamo avuto i Gilets Jaunes in Francia e così via. Tutta una serie di segnali che indicano che le contraddizioni non sono risolte, e anzi più adottano misure, più introducono motivi per comprimere, reprimere, più le contraddizioni saltano fuori, tendono a esplodere. Queste contraddizioni sono tra di noi e si stanno muovendo. Ricavare un bilancio politico attorno ai nodi dello Stato, della violenza, della democrazia da Genova può aiutare a capire quello che è avvenuto, anche perché ci sono di fronte ipotesi di sviluppo differenti di quelle che sono oggi gli attori che si muovono, che dicono riprendiamo o l'eredità del noi global o dei rapporti. Io spesso tendo a dire l'esempio più eclatante, forse più significativo, di un determinato sviluppo negativo, a mio avviso, di quello che è stato il movimento no global, è quell'esperienza di Syriza e Tsipras in Grecia, e ci mettiamo anche la lista Tsipras per l'Europa, che ha rappresentato come da quella dinamica no global, eccetera, si arrivi all'interno delle aree di governo e ci subordini completamente al potere e agli apparati finanziari europei e occidentali, non vedendo altro orizzonte che quello del ripianamento del debito. Diciamo, si arriva anche peggio: l'ala destra di Syriza ha firmato, ultimamente ha votato a favore, in questi poco tempo fa, la legge contro l'abolizione delle 8 ore in Grecia, introdotta dal governo di destra Mitsotakis. Ma tutte queste contraddizioni, a mio avviso, stanno emergendo, e penso che noi dobbiamo cercare di passare a dare un testimone utile alle nuove generazioni, un insegnamento, una valutazione che possa servire. In questo periodo ho richiamato le contraddizioni che abbiamo sulla gestione della sanità con il Covid, sulla questione degli immigrati, che è una questione epocale, sul lavoro e la riproduzione della nostra esistenza, che è un momento di precarietà permanente, e sulla questione dell'ambiente, che sta arrivando alla distruzione complessiva di questa società. In questa fase, seppur interrotto dal Covid, bloccato da questo, si è iniziato a sviluppare un movimento come quello di Fridays for Future. Fridays for Future ha delle analogie con quello del movimento No Global, è internazionale, è interclassista, va a toccare dei nodi fondamentali nella riproduzione del capitalismo come la gestione. È destinato a mobilitarsi e a fare i conti con il ruolo dei governi, con la fine dell'illusione di chiedere ai governi la fine del peggioramento climatico e la scelta di interventi che non ci saranno da questi governi a favore del clima, e dovrà fare i conti con la violenza di Stato contro le mobilitazioni quando saranno ritenute pericolose. E io penso che il grosso della lezione di Genova sia questo: non credere nella democrazia, non credere che è all'interno di questo quadro che c'è una possibilità di emancipazione e di trasformazione. La chiudo qua perché sono già andato troppo avanti e ne discutiamo. Sì, ecco, io vedo che c'era Sandro che aveva alzato la mano. Yes. O sbaglio? Sì, sì. Mi senti? Sì, ti sentiamo. Sì, sì, sì, posso parlare quindi. Certo. Volevo riprendere al contrario l'intervento appena fatto, che, di cui condivido naturalmente molte cose. Però c'è un 3-4 cosette che vorrei, dal mio punto di vista, puntualizzare. Ecco, rispetto a ai movimenti no global sviluppati qui in Europa fino all'esperienza di Syriza, eccetera, in realtà l'unica grossa vittoria quel movimento la ottenne proprio a Seattle. Sappiamo benissimo che lì bloccò il G8, insomma, e lo bloccò, lo sappiamo benissimo, con partecipazione di tipo diverso. Lì il pragmatismo americano ebbe ragione di quelli che poi sono stati i calcoli politici e partitici europei. Cioè lì i Black Bloc fecero i Black Bloc, i buddisti fecero i buddisti, i portuali fecero i portuali, ognuno fece la sua parte nelle modalità e nei modi che voleva, e si giunse al blocco del G8. Questa è la cosa importante da dire. Gli operai i portuali di Seattle erano no global, nel senso che non volevano più vedere scaricate merci cinesi in America, i buddisti si presero il gas al peperoncino negli occhi senza mollare, i Black Bloc lanciarono Molotov, insomma crearono il casino adatto a bloccare quella cosa. Io credo che questa sia la prima cosa da dire, perché poi in seguito qui in Europa c'è la solita mania di stiamo tutti insieme, vogliamoci bene, costruiamo una cosa unica, cosa che non è possibile, perché immediatamente, lo sappiamo, ci sono forze che hanno comunque obiettivi e opinioni differenti. Io mi ricordo in quei giorni andai a Genova proprio su un pullman di Rifondazione Comunista, io vivevo all'Elba, era l'unico che partiva da Piombino. Fino al giorno prima erano garantiti 10 pullman della CGL da quella parte della Toscana, poi sabato mattina ci ritrovammo con un pullman perché il sindacato, dopo la morte di Carlo Giuliani e gli incidenti il giorno prima, aveva disdetto la sua partecipazione, no? Quindi evidentemente già c'era qualcosa di strano. Ma non perché ci fosse qualcosa di programmato, evidentemente non andava più bene una manifestazione che aveva svolto quelle cose. Al ritorno a quelle manifestazioni, nonostante i compagni di Rifondazione Comunista di Piombino e dell'Elba, io non ero di Rifondazione Comunista, ero con loro per motivi puramente di trasporto, avevano preso sul lungomare un sacco di botte, veramente un sacco di botte, sul pullman sembrava di essere su un'ambulanza, incazzatissimi con la polizia, eccetera. Il giorno dopo me li ritrovo a Portoferraio, a Piombino, a dare i volantini in cui si dava tutta la colpa ai Black Bloc, perché il partito aveva deciso così. Quindi faccio solo questo esempio per dire, evidentemente stare tutti insieme o porta dei grandi compromessi, che poi sono quelli a cui accennavi tu prima rispetto a Siriza, oppure porta a cose anche peggiori. La cosa peggiore, qui tu hai esposto benissimo tutte il terrore messo in piedi dallo Stato in quei giorni, però io credo che alcune cose potessero essere evitate. La Diaz poteva essere evitata. Io quel giorno ero lì e avevo compreso, sarà stata l'esperienza, sarà che dal 68 al 77 gli scontri me li sono vissuti tutti, ma insomma era chiaro che quella sera a Genova non si poteva rimanere. Chi sono gli imbecilli che hanno fatto dormire la gente alla Diaz? Quella è una responsabilità enorme. Io mi ricordo che mentre me ne andavo, passavo vicino a dei campetti sportivi in cui c'erano giovani compagni con le tende piantate, e gli dicevo, per favore andate via da Genova questa sera, non rimanete qui, andatevene. Evidentemente qualcun altro invece pensava, e qui arriviamo al discorso sulla democrazia, che sì, la democrazia si potesse interrompere fino a un certo punto. Invece la Diaz dimostrò che si poteva andare ben altro, ma era prevedibile quella sera, c'era la caccia all'uomo nelle stazioni, c'erano per tutta la città, io sembravo nel 2001, avevo ormai quasi 50 anni, sembravo un signor attempato e passavo tra un blocco di poliziotti e gli altri, ma insomma, se questi vedevano due ragazzi con i capelli di rasta o due ragazze un po' stracciate, immediatamente assumevano l'atteggiamento del bulldog che morde, insomma, quindi gli elicotteri che giravano, come si è fatto? Cioè, ma questo deriva da un'altra cosa, la sopravvalutazione della democrazia. Come dicevi tu, la democrazia funziona così, anzi io direi di più, la democrazia esiste quando esiste una controparte, quando i movimenti sono una controparte che esprimono un contropotere con cui occorre misurarsi. Questo vale per gli anni 70, le vittorie delle fabbriche, dei vari movimenti. Sostanzialmente l'insieme di quel movimento era così grande da avere un contropotere che non era solo politico, era anche militare, ma non grazie alle azioni armate poi disgraziate delle formazioni armate, ma semplicemente dell'organizzazione di base spontanea. Cioè, voi a Milano sapete benissimo, non si trattava solo dei servizi d'ordine e lotta continua degli altri. Qualsiasi esperienza che nasceva anche dal basso, un minimo di struttura militante, militare per l'autodifesa se la dava. E quando tutti questi movimenti erano in piazza, esercitavano pressione politica, ma anche militare, non c'è niente da fare. I movimenti dagli anni 90 in avanti questa cosa qui non l'hanno espressa, e non l'ha espressa nemmeno il movimento di Genova. Questo non bisogna dimenticarlo, è un fatto numerico, la manifestazione di Genova erano enormi, no? Però evidentemente, passato la prima giornata con quello slogan delirante, violeremo con i nostri corpi la zona rossa e giù tutti imbottiti a andare allo scontro dei carabinieri che avevano già massacrato a Napoli la manifestazione, il sabato di servizi d'ordine non ce n'erano più, non ce n'era più nessuno, non c'era più nessuna forma di auto-organizzazione. Qui il fatto che poi i Black Bloc abbiano resistito, eccetera, beh, quella è stata una forma di spontaneismo, di resistenza, con tutte le cose che dicevi tu prima, che non sono pienamente condivisibili, ma certo non sono il male che poi soprattutto la sinistra volle presentare per quelle cose. Cioè fu resistenza spontanea di giovani e di altri, perché venne a mancare quell'elemento. Ora io in tutta questa celebrazione di Genova provo un grande schifo per i giornali che adesso scoprono tutti che il movimento No Global aveva delle ragioni, no? Soprattutto quando la Repubblica scrive che i No Global avevano ragione, poi la Repubblica è il primo quotidiano che difende la realizzazione del TAV e applaude la polizia quando mena i manifestanti No TAV, quindi non si capisce in cosa dia ragione i No Global. Però mi fa anche un po' specie che tutti... anche nella sinistra, non centrosinistra, ma quella caschino un po' in questa trappola, no? Hanno riconosciuto le nostre ragioni, dobbiamo le cose che hai già detto tu e quindi non voglio ripetere, difendere la democrazia, ma sono tutte balle, ma sono tutte storie, o facciamo i conti con queste storie o continueremo a dare vita a movimenti di sconfitta. Oggi abbiamo le aziende straniere che licenziano in Italia, è evidente che in Italia c'è una crisi del settore automotive, non c'è niente da fare da questo punto di vista. La logistica, tutta la catena, no, dell'indotto dell'auto, lo dicevo oggi un articolo su Huffington Post, il 20-30% delle aziende della componentistica in Italia è destinata a chiudere. È destinata a chiudere, è inutile che il sindacato continui a dire no, non si fa così, o gli operai si illudano, sì, però queste multinazionali non possono, quelli fanno quello che vogliono, le multinazionali hanno sempre fatto questo lavoro in tutto il mondo, solo che prima lo facevano nelle Filippine e in altre o in Sud America, adesso lo fanno in Italia. Quindi perché stupirci? Ma bisogna incazzarsi certamente con le multinazionali, ma ancora di più con chi fa finta di non sapere queste cose, soprattutto se ha un ruolo politico e sindacale. Queste sono cose che non si possono non dire, se no davvero continueremo a dare vita alla sconfitta. Aggiungo soltanto più due cose: la sconfitta è sempre politica e militare, e quindi se c'è una sconfitta politica e militare non è solo l'avversario che è molto forte, e che chi ha lottato contro quell'avversario ha fatto degli errori, talvolta grossolani, talvolta piccoli, talvolta significativi, ma li ha fatti. Se non si ragiona sugli errori, si continuano a ripetere. Se facciamo finta che gli errori siano, non siano tali, allora facciamo come a Venezia in questi giorni, dove i giovani sono andati un po' imbottiti con i bastoncini a fare spintoni con la polizia, qualcuno si è preso un sacco di botte, qualcuno prenderà delle belle denunce, come quello che è stato fermato. Possiamo continuare ad andare avanti così? Secondo me no. Per così si logora un movimento in un contesto, e questa è l'ultima cosa che dico, che a partire da Genova come esempio, mi rifaccio tutto quello che hai detto prima tu, ma sempre di più oggi, proprio per i motivi della crisi capitalistica, è sempre più di guerra civile. Ma non è una guerra civile dichiarata da più parti, è una guerra civile dichiarata dagli stati nei confronti dei propri cittadini. Non vi è altra risposta che la repressione nei confronti dei movimenti. O noi cominciamo a ragionare su queste cose, o se continuiamo ad appellarci al buon cuore dei governanti, alla democrazia, alla possibilità di fare delle trattative sindacali su queste cose qui non ci sono. Ma da qui bisogna partire, se no continuiamo veramente a creare in futuro delle altre Genova. Vediamo che nel resto del mondo, dove gli scontri sono stati accesi nei mesi del Covid, post-Covid, eccetera, mi viene in mente il Cile, dove si è andati a ribaltare la Costituzione, a cercare di metterne una più democratica, ma anche lì è una questione di transizione, no? Non credo che sarà una cosa così decisiva per il Cile, ma comunque è stato fatto su movimenti vasti, grandi, e che hanno tenuto la piazza. Non c'è niente da fare su queste cose qui. La discussione politica non ha nessun senso se non tiene conto di queste cose. E non perché io voglio osannare l'uso della forza, eccetera, ma non possiamo dimenticare questo aspetto. Non possiamo assolutamente dimenticarlo. Cosa che dagli anni 90 in avanti, grazie anche alla esperienza fallita, e anche lì bisogna dirlo, non bisogna avere miti, della lotta armata in Italia, un'esperienza fallimentare, cominciata in un momento in cui tutti i movimenti stavano già retrocedendo. Sull'esperienza di quello non si è più parlato, siamo diventati tutti pacifisti, siamo diventati tutti difensori della democrazia, dei diritti, eccetera, senza contare che quelli vanno difesi con una forza di massa, e non c'è niente dal mio punto di vista. Su queste cose ho fatto uscire un libro proprio recentemente che ho curato, Guerra Civile Globale, ci sono 14 interventi che fanno il giro del mondo dal punto di vista delle esperienze repressive, degli scontri, dal Messico al Cile, passando per l'Italia, la Francia dei Gilets Jaunes, e più chi ne ha più ne mette, proprio per cominciare a riflettere su questa cosa. Perché se non riflettiamo su questo e pensiamo che il meccanismo sia ancora quello del confronto democratico, non lo dico per noi che siamo qui presenti evidentemente, ma se non si combatte questa concezione, i movimenti attuali sono destinati ad essere repressi, sconfitti, sempre più terrorizzati e non in grado di rispondere a quelle che saranno sempre di più le politiche governative, finanziarie, internazionali e nazionali. Scusatemi se mi sono dilungato. C'è qualcuno? Dunque, se qualcuno ha alzato la mano può parlare. Allora parlo io brevemente, spero. Mi riallaccio all'ultimo intervento di Sandro. Per questa questione, primo, guerra civile, secondo, lo Stato, o viceversa. Non si può interpretare la violenza di Genova e quella precedente di Napoli senza dire quale Stato l'abbia compiuta. E al di là della forma transeunte dal governo Berlusconi piuttosto che Amato, piuttosto che Monti e così via, ciò che caratterizza lo Stato, anzi gli Stati che si riuniscono a Genova, è la loro natura di Stati della finanza trionfante, di cui anche l'Italia, anche il capitalismo parassitario italiano, si pregia di far parte. E questo tipo di Stato, che è lo Stato dell'espropriazione di massa, non solo dal proletariato che è già stato espropriato negli anni precedenti, ma anche dei ceti medi che sprofondano dopo lo sprofondamento del proletariato, non ha problemi a utilizzare la violenza nel modo cinico e bestiale che ha fatto, ma soprattutto ha organizzato già prima di Genova e soprattutto dopo Genova, anche se Genova non fosse successa, tutta una serie di meccanismi legali, di meccanismi di controllo che nulla hanno a che fare con la democrazia. Sarà per mestiere, ma da almeno 30 anni, quando mi dicono c'è ancora il codice Rocco, io paradossalmente rispondo per fortuna. Perché? Perché le leggi sociali e penali fatte dallo Stato della finanza sono leggi che fanno impallidire il fascismo. Voi pensate solo che come è stato trattato il furto in Italia. Oggi il furto viene punito come una rapina e la rapina viene punita in modo bestiale. Francesco ha parlato di quel compagno che è stato accusato di devastazione e saccheggio ed è in carcere grazie alla collaborazione dei collaborazionisti delle società di controllo lì, dei preti piuttosto che dei preti non cattolici. Sono leggi per cui oggi la gioventù, il proletariato, gli immigrati vengono messi in galera, vengono puniti in un modo bestiale. Queste sono le leggi che regolano il rapporto tra Stato e masse. E d'altra parte i finanzieri, senza scomodare Bertolt Brecht, vengono trattati con i guanti e non vanno in galera, mentre negli Stati Uniti se tocchi il denaro degli altri oltre un certo limite fai la fine di Madoff, ma in Italia no, perché in Italia vai al governo, sei con Berlusconi e sei con i finanzieri del PD piuttosto che di altri partiti. Questo per dire che non abbiamo uno Stato democratico secondo i vecchi stilemi della democrazia borghese studiata dai nostri virgolette padri teorici. Dobbiamo analizzare che cos'è lo Stato oggi, lo Stato del capitale finanziario, immobiliare e parassitario, che su questa base è riuscito dal 2001, prima crisi di borsa, al 2008, seconda crisi, e attualmente a socializzare tutte le perdite e a farne anzi carne di porco per fare nuovi affari finanziari e così via. Di conseguenza, quando dobbiamo polemizzare con o attaccare o criticare o svergognare a seconda delle necessità gli altermondialisti che spacciavano che un altro mondo è possibile. Sì, quale altro mondo? Noi dobbiamo dire che l'altro mondo è possibile, è il comunismo. È lì il punto. E quando ci vengono a dire avevamo ragione noi, 20 anni dopo devono dare risposta a tutti i problemi che ponemmo a Genova, e noi li diciamo ancora di più oggi, di fronte ai movimenti giovanili, c'è da portare avanti questa prospettiva, perché il nostro nemico non è più soltanto la vecchia borghesia, è una borghesia, ripeto, pronta a qualsiasi nefandezza e che ci sta portando alla guerra, come ben sappiamo, dato che bene o male ne seguiamo le opere con il centro di documentazione e con altri, il contributo di altri compagni. Per cui noi dobbiamo, se vogliamo parlare di Genova, parlare di ciò che ha permesso Genova e di ciò che poi è venuto e che fa impallidire Genova. Ripeto, se pensate soltanto a una norma fiscale, io vi ho parlato di una norma penale, quella che puniva il furto in una maniera limitata e che adesso lo porta a 8-9 anni. Perché se attenti alla proprietà privata sei un disperato, un disgraziato. Pensate all'esecuzione dei pignoramenti immobiliari. I pignoramenti immobiliari a chi servono? Alle banche. Le banche hanno prestato, hanno fatto i mutui alla cazzo, scusate l'espressione, perché serviva farli in quel momento, serviva perché se no le grandi realizzazioni immobiliari non sarebbero state eseguite. L'esecuzione immobiliare, ci dicono, lo vuole l'Europa, la Cartabia ci sta lavorando, ma ci stanno lavorando da 10 anni. Oggi chi ha un pignoramento immobiliare viene messo fuori di casa immediatamente, non è mai successo. Prima eri nominato custode e aspettavi la procedura esecutiva. Oggi la procedura esecutiva corre come un treno e poiché non basta che corra come un treno, deve correre come un treno super veloce. E la riforma del processo significa proprio questo, garantire ai creditori, e i creditori sono le banche, di espropriare gli espropriati, di togliergli la pelle e la carne. Questo è lo Stato che abbiamo di fronte ed è contro questo Stato che dobbiamo armare, tra virgolette, teoricamente, e in futuro invitarli a usare la violenza, gli operai, i lavoratori, i giovani e così via, perché è una macchina da guerra civile permanente. È per questo che i poliziotti la pensano così e la fanno così, perché chi è espropriato non ha valore e può essere picchiato, come la legge del carcere, ed è venuto fuori Santa Maria Capua Vetere per puro caso o per contrasti interni alla magistratura. Ecco quindi la riflessione che secondo me è importante fare per dare ai giovani che ancora oggi, bene o male, ritornano sulle piazze, e in Italia meno che in altri paesi. Sandro citava il grandioso movimento cileno, quantomeno sulle piazze, si potrebbe citare quello colombiano, si potrebbe vedere quello che è avvenuto in Sudafrica, che non è certo solo opera dei seguaci di Zuma, ma della situazione interna, e così via. Per cui noi dobbiamo fare questa opera di quantomeno chiarificazione teorica. Sono d'accordo, c'è una guerra civile strisciata, se no la polizia francese contro i gilets jaunes avrebbe fatto gli omicidi che ha fatto. Questi ammazzano perché hanno l'ordine di ammazzare, perché il loro presidente Macron è l'espressione dello stato finanziario francese, non a caso ha fatto le scuole che ha fatto, ha lavorato presso le banche che, presso cui ha lavorato, è andato poi a fare il presidente dopo una crisi politica verticale. Ma in Italia abbiamo qualcuno che è anche più esperto di Macron, perché ha il doppio dei suoi anni, ha un curriculum, non solo Draghi, notevolissimo, della finanza. Con questo non escludo la responsabilità, ovviamente, di chi estrae il plusvalore e produce il primo profitto e lo distribuisce poi a tutti i parassiti, gli industriali, le multinazionali, anche i piccoli industriali e così via. Quindi se dobbiamo dibattere, cerchiamo di farlo sulla linea, non sono d'accordo su tutto quello che ha detto Sandro, ma quantomeno c'è quel punto di forza, di novità a cui dobbiamo tendere lo sguardo. C'era un altro intervento prenotato, c'era un'altra mano alzata, non so di chi è, se deve intervenire. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Allora, non so, c'è qualcun altro che vuole parlare, che vuole intervenire, perché sennò mi abbiamo massacrato subito. Ma io penso che però la questione sia piuttosto interessante, cioè gli interventi che mi hanno seguito hanno messo in evidenza una serie di altri problemi collegati strettamente alla questione. La necessità di trarre questi bilanci, direi ad esempio, si può fare anche vedendo quanto sta avvenendo in questi giorni. Ci sono gli operai in piazza che protestano, giustamente, perché li licenziano, perché ci sono questi multinazionali, soprattutto questi fondi di investimento, che sono una cosa diversa da multinazionali, sono dei puri speculatori sugli interessi che possono percepire e sui dividendi che possono incassare. Ma sono licenziati perché è stata fatta una legge, o meglio, non è stato rinnovato il cosiddetto blocco dei licenziamenti, qui non siamo nemmeno di fronte a situazioni in cui immediatamente devono essere chiuse queste fabbriche. Giustamente questi operai si mobilitano e ce l'hanno con i fondi di investimento, ma non c'è uno che se la pigli o dica pubblicamente sui media, eccetera, con i partiti che hanno approvato questa legge, con il governo che l'ha fatta. Perché se fenomenicamente in questo momento è fattibile, è perché il governo Draghi ha fatto questa legge e tutti i governi l'hanno e tutti i partiti hanno votato, o meglio, non si sono opposti a questa legge del governo, e anche la cosiddetta opposizione dei Fratelli d'Italia ha guardato bene di non dire niente. Poi si arriva alla presa per il culo di Giorgetti, che dice dovremmo intervenire perché non ci vuole il Far West su queste cose. Ma è una delle ricadute di questa situazione. Grande cosa è invece proprio fare tesoro di questa situazione. Io non volevo intervenire su tutte le cose che sono state, come si dice, evidenziate negli altri due interventi, perché ci sarebbe tanto da parlare. Il cuore della questione è questo. Noi stiamo andando in un mondo che vedrà sempre più un settore ristretto di ricchi sempre più ricchi, tra virgolette, di borghesia sempre più parassitaria, sempre più finanziaria, sempre più ristretta, sempre più, per sopravvivere, politicamente parlando, come sistema sociale, dovrà reprimere sempre di più. Una realtà che è sempre più di meno ricchi più ricchi, dovrà levare sempre di più i residui della democrazia precedente. L'illusione democratica è la grossa cosa da cui qualunque movimento deve riuscire a liberarsi e farsi tesoro, con tutte le altre cose che sono state dette. Se volete delle note di colore, giusto su quanto non ci sia mai stata la volontà di fare giustizia su Genova. Sentivo alla radio questa mattina il regista Daniele Vicari, quello che ha fatto il film Diaz, e spiegava che lui ha dovuto girarlo tutto in Romania, perché in Italia non gliel'hanno fatto fare. non aveva fatto fare il potere politico italiano. Altro che commissioni d'inchiesta, che democrazia da recuperare e così via. Beh, le scuole romene saranno state simili alla Diaz. Sì, probabilmente sì. Sì, sì, quella del film esternamente è uguale alla Diaz proprio. Avranno sì. girato gli esterni a Genova? No, non credo, perché ci sono sì. anche gli esterni notturni con la polizia e tutto. No, quelli no. Gli esterni, ha girato degli esterni a Genova, mandavano i vigili di Genova a bloccarlo, a fargli storie. I poliziotti hanno fatto una circolare che non si doveva parlare del film in nessuna veste. Beh, quel film lì ha avuto un effetto, io ricordo, in una normale sala cinematografica bresciana entravamo ed usciva un pubblico di gente normale, ma assolutamente come se fosse uscita da un film dell'orrore, un film che aveva un impatto fortissimo e fatto molto bene da questo punto di vista. Naturalmente poi c'era chi aveva detto no, è andato a girarlo in Romania perché costava di meno, ma era chiara la manovra politica di blocco dell'espressione di un altro punto di vista su quel fatto che adesso tutti condannano, poi lo ripetono a Santa Maria Capua Vetere, chiedono scusa, poi domani lo ripetono davanti a una fabbrica di queste in lotta, poi chiederanno scusa anche, insomma, Sacco e Vanzetti sono stati ammazzati nel 27, nel 77 la corte del Massachusetts ha riconosciuto che erano innocenti, ha chiesto scusa, no? Ci abbiamo fatto la birra con quelle scuse, no? Soprattutto Sacco e Vanzetti. Sì. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Domande, che ne so. No. Come si dice? Contrari. Mettiamola democraticamente ai voti. Non lo so. È un'illusione la tua. Figurati. Sapete che per quanto riguarda le votazioni il movimento bolscevico instaurò un programma ben preciso, disse andiamo alle votazioni, fecero due conti e videro che siccome i contadini erano più degli operai, dissero vabbè ok andiamo, il voto operaio vale 5, adesso non mi ricordo esattamente, quello dei contadini 1, ecco, e così vabbè, si possono fare le elezioni. Avevano già previsto che uno non vale uno. Esatto. E dunque, no, l'ultima cosa, perdone, un'osservazione la faccio anch'io, perché è chiaro che è un'osservazione che secondo me è proprio nel divenire prossimo e che abbiamo anche già visto. Cioè nel momento in cui si vedono migliaia, decine di migliaia, poi in alcuni casi abbiamo visto addirittura milioni di persone, dico, tanto per citare gli avvenimenti ultimi americani, siamo arrivati a vedere milioni di persone in piazza, evidentemente tutto questo nel potere scatena anche una paura, non si tratta semplice, quindi a questo punto reagisce e reagirà sempre più col sistema del terrore, perché chiaramente la prima caratteristica di Genova, che poi diventerà, e andando avanti diventerà una cifra, è quella che in presenza di queste cose tu cerchi di instaurare il terrore, perché soprattutto dentro un quadro di partecipanti che è il più variegato e interclassista possibile, ottieni anche velocemente dei risultati, perché molti abbandonano per timore, per paura, no? Ecco, e qui mi riallaccio a quello che diceva Sandro, cioè in che termini, quando ha posto la questione della forza, e che deve essere capita che non si tratta di dare un pugno più forte di quell'altro, ecco, è una forza politica, cioè che quindi veda un movimento, veda qualche cosa che è capace di far diventare il movimento organizzazione, e questa organizzazione diventa una forza, perché è in grado di porre una questione tale che può essere anticipazione del dualismo del potere, e in questo caso anche in forme ridottissime, ecco che diventa una forza, perché se è semplicemente una forza di contestazione, chiamiamola così, lascia il tempo che trova, ecco. Ho voluto semplicemente rimarcare un passaggio di Sandro tra i tanti che ho sentito. E poi chiaramente l'altro aspetto, quello della finanza, quello è oltre ogni confine, mentre qua ci sono i Fratelli d'Italia, no? Che mi fanno ridere. Provo a dire qualcosa io, posso? Certo. Sì, avanti. Mi senti? Sì, ti sentiamo. Sì. Beh, è evidente che la mattanza di Genova o la controrivoluzione preventiva ha stroncato il movimento in Italia, cioè dopo di allora, a quanto almeno risulta, grandi movimenti non ce ne sono stati da noi, nel senso che adesso sì, ci sono le lotte nella logistica. In altre situazioni cioè, c'è state le primavere arabe, le rivolte nel Sud America, in Colombia, eccetera, e poi l'anno scorso nel centro degli Stati, cioè nel centro dell'impero, diciamo così, cioè, degli Stati Uniti, ci sono state queste rivolte che hanno unito sia i proletari neri che quelli bianchi. Di vario colore, multiraziale, ma in Italia non si è visto niente di questo genere. Quindi, insomma, una riflessione su questo penso che dovremmo farla. Poi, a questo punto, io dico un po' le mie impressioni di allora, che certamente saranno anche parziali, però, io ebbi l'impressione, beh, io ho una certa età come sapete, quindi dal 77 eccetera, comunque ebbi l'impressione allora che la fase era nettamente cambiata, mi spunta, non si sente bene. Un altro tipo di proletario giovane, certamente, probabilmente precario, probabilmente sfruttato al massimo, ma che ne è difficilmente definibile, eppure c'erano 250.000 persone a quanto si dice. Ora, il movimento No Global italiano, il Social Forum, Genova Social Forum, sicuramente non era molto, non era radicale, anzi tutt'altro, aveva fatto i patti con la polizia eccetera eccetera, però neanche si aspettava questo, a parte i Black Bloc che venivano dall'estero, ma non si aspettava neanche questa grande partecipazione, secondo me, che ci fu. Quindi si può dire che allora ci fu cambiamento di fase, cioè di soggetto proletario che irrompeva nelle piazze. Certo, impreparato da un punto di vista di tante dello scontro. però comunque c'era. Questo che poi oggi possiamo ancora vedere nella situazione appunto americana degli Stati Uniti dell'anno scorso, in cui questo giovane proletariato multirazziale, multietnico, eccetera, ha preso conquistato la scena della rivolta. Quindi penso che bisogna riferirsi a questo tipo di proletariato, di cui in Italia abbiamo una frazione non certamente maggioritaria, quella che lavora nella logistica, ma che comunque è l'unica che esprime un antagonismo nei confronti del capitale. Quindi. E poi un'ultima cosa, è certo che allora, quando si parlava di globalizzazione, sì, però diciamo il riferimento era ancora un po' l'imperialismo con a capo gli Stati Uniti, c'era ancora questa, diciamo, questo residuo di analisi passate. Poco tempo prima, l'anno prima, era uscito il libro di Michael Hart e Tony Negri, che ci ricordiamo, L'Impero, la corrispettiva moltitudine, che praticamente aveva dato quasi per chiuso la situazione. Ma in realtà, dopo neanche due mesi, con l'attentato alle Torri Gemelle, quello che era stato sempre definito imperialismo americano non è andato in pezzi certamente, però insomma è iniziato il suo declino e si è frammentato, oltre alle grandi multinazionali, ma anche a livello di stati imperialisti c'è una grande frammentazione. Quella che ne è conseguita è quello che noi abbiamo sempre definito guerra permanente, che è quella tuttora in corso, e cui, la cui prospettiva adesso non è molto chiara, però insomma è quello che attualmente c'è, a cui penso bisogna fare riferimento. Ma posso dire ancora una cosa? Sì, sì. Tanto, scusate. No, rispetto alle Torri Gemelle, credo che spesso si dimentichi una cosa che fu importantissima proprio in quei mesi, la conferenza di Durban, quella che si tenne in Sudafrica dal 30 agosto al 7 settembre del 2001, in cui le organizzazioni, l'ONG, insomma quello che poteva essere il braccio istituzionale di quello che era stato il movimento No Global, aveva duramente condannato lo schiavismo e la sua storia, quindi tirando in ballo gli Stati Uniti, e dall'altra l'occupazione israeliana dei territori. E tanto è vero che da quella conferenza gli Stati Uniti ritirarono sia il rappresentante americano e Israele il proprio rappresentante. Quattro giorni dopo, l'11 settembre, venivano colpite le torri. E quella conferenza, mi ricordo, all'epoca suscitò molto scalpore, perché raccoglieva anche i capi di Stato africani, insomma, era qualcosa per la prima volta veramente forte in termini, se vogliamo, antiimperialisti, che veniva espressa in quei modi, guarda caso, in Sudafrica, in quegli anni, eccetera. E quello fu un evento importante, importante perché era proprio una presa di posizione enorme, se andate a vedere il numero dei partecipanti, eccetera, e la rabbia con cui gli Stati Uniti e Israele accolsero quelle dichiarazioni, è veramente interessante, perché è un aspetto di quegli anni che troppo spesso è dimenticato, è rimosso, eccetera, però nell'aria c'era insomma questo antiimperialismo, che poi Antonio, che poi Antonio Negri non ne aveva mezza cata una e un altro paio di maniche, ma quello spirito antiimperialista, eccetera, in qualche modo si trasmetteva anche attraverso istituzioni, e anche quella cosa lì è finita, insomma, come diceva all'inizio Lui prima, ecco, con l'11 settembre, l'inizio della guerra, anche in America ci furono difficoltà a organizzare manifestazioni contro la guerra, ci furono, ma insomma sempre più deboli nel procedere degli anni. Però ecco, questo volevo ricordare, questo aspetto, questo fatto che spesso viene rimosso. Qualcun altro? Io non vedo la fine dei movimenti dopo il 2001. Anzi, l'ho già detto ai compagni con cui avevamo discusso questa riunione. Abbiamo avuto il 2002 col movimento per l'articolo 18, che ha portato in piazza Roma 2 milioni di persone. Li ha portati Cofferati? Sì, però c'era un movimento di resistenza a questa malvassa padrona. 2003 abbiamo avuto il movimento contro la guerra, che negli Stati Uniti, la guerra in Iraq, che è stata la fine dei movimenti contro la guerra, ma è stato molto numeroso ed è finito per un motivo, perché proprio la fine dell'antiimperialismo americano ha portato alla luce il fatto che molti antiguerra erano per il proprio Stato, per il proprio imperialismo, e quindi noi oggi ci troviamo a lottare su un terreno più avanzato, e la parola d'ordine, il nemico di casa nostra, ha una base più chiara. Poi abbiamo avuto fino al 2010 i movimenti nella scuola contro lo smantellamento della scuola pubblica e la nuova organizzazione scolastica, che sono culminati nel 2010 con l'assedio al Parlamento italiano il 10 dicembre del 2010 contro la riforma universitaria, quindi, che poi portò a pochi mesi dopo alla caduta, su una delle ragioni della caduta del governo Berlusconi, anche se la riforma poi è andata avanti spedita, grazie a tutti. Scusami su una cosa, io parlavo proprio del movimento antiglobalizzazione. Allora potremmo dire che da 30 anni c'è il movimento NOTAV, che è un'esperienza unica in Europa. Poi abbiamo avuto il quasi quindicennio di più, il ventennio del NOTAV, e soprattutto nel 2010 un movimento operaio di tipo moderno, adeguato ai tempi, che è quello della logistica, e che non è solo quello della logistica, perché poi dobbiamo considerare che ci sono anche altri movimenti che in questo momento non si esprimono appieno. Sarà compito dei sindacati combattivi e conflittuali vedere se riusciranno a portare dalla propria le categorie fondamentali di fronte alla crisi attuale. Proprio per questo. Poi ricordiamoci che finché era un movimento antiglobalista e antiimperialista, aveva al suo interno non solo tendenze radicali e internazionaliste, ma anche tendenze profondamente nazionaliste. Difatti, non a caso, questo è il ventennio in cui il fascismo moderno in Italia, in Francia, piuttosto che in Germania, piuttosto che in altri paesi, ha utilizzato alcune parole d'ordine dell'antiglobalismo per farle proprie, e noi abbiamo di fronte anche questo avversario, questo nemico da combattere. C'è qualche altro intervento? che stiano anche riducendosi come partecipanti. Ho soltanto due osservazioni. Sì. Una sulla efficacia della violenza di Stato, perché dobbiamo prendere atto, anche se ci sono state le altre forme di movimento di conflitti sociali, anche se guardiamo nell'insieme in Italia, direi che la conflittualità operaia e sociale in generale negli ultimi 20 anni è andata decrescendo. E quindi io credo che dobbiamo prendere atto della efficacia della violenza di Stato controrivoluzionaria e quindi di quanto diciamo così sia infantile pensare che il sistema capitalistico, di quanto sia infantile tutta la logica del crollismo, cioè tutta la logica per cui di crisi in crisi, a un certo punto crolla tutto e quindi di quanto sia invece importante la politica, la strategia, la tattica. Dall'altro lato, dialetticamente, che la violenza usata nel 2001 qui e contro l'Afghanistan, diciamo, contro il popolo dell'Afghanistan, poi per 20 anni, non è risolutiva. Non è risolutiva. È efficace, ma non risolutiva. Perché dal 2001 ad oggi si sono concatenate in modo discontinuo, non c'è una crisi permanente, non c'è una crisi permanente, la Cina continua a salire. Si sono concatenate una serie di crisi e negli ultimi 2 anni, per la prima volta, è scoppiata una crisi sul terreno della riproduzione sociale e si stanno combinando crisi climatica, crisi sanitaria, crisi economica, manca per ora lo scoppio di una crisi finanziaria, ma potrebbe essere appunto l'esito dei tentativi affannosi di impedirla. Paradossalmente potrebbero essere contraddittoriamente delle premesse per lo scoppio di una grande crisi finanziaria. Quindi, appunto, efficacia della violenza controrivoluzionaria, non risolutività di questa violenza, e per il quadro che avete tutti descritto, insomma. Questo è una prima considerazione. Una seconda è sul nuovo contesto nel quale siamo 20 anni dopo. Ne ragionavo con a Napoli in questa, diciamo, abbastanza grossa assemblea di giovani dell'Iskra e del Fronte della Gioventù, diciamo 200-250 giovani, molto partecipata, nel senso di così di sentita, e dicevo c'è il G20, si parlava del G20, no? Qui noi siamo davanti a una grande questione politica, cioè che è riemersa in questi giorni con Cuba, con gli scioperi operai in Iran, eccetera, eccetera, e cioè che certamente dentro il G20 c'è un G7, certamente per noi il nemico principale in casa nostra, però deve essere sciolta, io mi sono riferito soprattutto agli appartenenti al fronte della gioventù, deve essere sciolta in modo inequivocabile la questione se noi abbiamo diciamo un campo imperialista o se abbiamo uno scontro interimperialista in prospettiva, senza mettere confusione tra gli imperialismi storici e un paese come la Cina, che secondo me ha appena messo un piede nel, o anche tutti e due, se vogliamo, data l'importanza che ha assunto la esportazione dei capitali negli ultimi 5-6 anni per la Cina, e soprattutto con la Belt and Road Initiative. E io appunto credo che ci troveremo davanti questo grosso problema di ordine politico e strategico anche perché se nella nostra parte, dalla nostra parte, negli Stati Uniti, in Italia, eccetera, si sta creando una distanza crescente tra i poteri costituiti, tra l'elite e la massa del proletariato, non si può dire la stessa identica cosa per la Cina e neanche per Cuba, starei per dire. Per cui, ma certamente non si può dirlo per la Cina, laddove abbiamo un proletariato che negli ultimi 30 anni, anche con la sua resistenza, con le sue lotte, però ha aumentato il potere di acquisto, ha comperato casa in un certo numero di casi, ha avuto un minimo di tutela in una nuova normativa del lavoro approvata nel 2008, eccetera, eccetera. E quindi il contesto è del tutto nuovo, anche in questa dichiarazione esplicita da parte statunitense di avere la Cina come nemico strategico. Dichiarazione a cui stanno seguendo tutta una serie di decisioni. Quindi io credo che in questo ventennio dobbiamo riconoscere che dopo 20 anni dal 2001, anche per la sconfitta ricevuta dagli Stati Uniti d'America in Afghanistan e la non vittoria in Iraq, perché in Iraq hanno distrutto l'Iraq, lo hanno cantonalizzato, ma non lo hanno assoggettato pienamente e in condominio con l'Iran, e questa situazione di doppia oppressione statunitense e iraniana non credo crei delle condizioni ideali per gli Stati Uniti d'America. Quindi il contesto davanti al quale ci troviamo, nel quale ci troviamo, è un contesto nuovo, molto differente da quello del 2001, e dovremmo appunto ragionarci a fondo sulle prospettive di questo scontro. Devo dire che io non credo moltissimo ad una guerra totale Stati Uniti-Cina, e questo mi fa piacere che la Cina cresca in potenza. Quanto più cresce in potenza, tanto più si avvicinano, diciamo, crisi a catena che coinvolgeranno anche la Cina, e credo difficoltà di regolare tutto con una guerra apocalittica, a meno che appunto non, veramente non siamo all'apocalisse finale del non l'impero romano, ma una regressione storica veramente, non so, apocalittica, da day after semi-globale, ecco. E invece penso che proprio questo riequilibrio di forze progressivo tra i due campi in formazione ci dia, dia alla rivoluzione sociale maggiori chance. L'ultimo aspetto, scusate se sono tocco aspetti non esplicitamente legati tra di loro, ma credo che siamo tra compagni che sanno scorgere da sé i legami. Il terzo punto è quello che sollevava Sandro nel suo uno dei punti che sollevava Sandro, cioè si pone la questione dell'autodifesa di classe, della violenza di classe in questa fase difensiva fondamentalmente, che è stata posta, e io concordo con lui, è risolta malissimo nel modo peggiore negli anni 70 e 80, verso i quali non so perché alcuni continuano ad avere un po' di nostalgia, specialmente quelli che così hanno fatto il tifo, ma non stando dentro quell'esperienza non hanno visto quanto è stata catastrofica, e sono quelli i ciarlatani che a me personalmente danno una nausea, starei per dire fisica, ecco. Invece credo che noi, appunto, senza evitare questa tematica, dobbiamo affrontarla in stretta connessione con lo sviluppo del conflitto di classe, cioè autodifesa che ha nell'organizzazione la sua principale forza. E quindi anche qui, senza avventure, senza gesti così individuali che non condanneremo mai da pacifisti, ma che sfilacciano le forze che sono già così limitate. Quindi credo anch'io che dovremo, e ho visto anche nella discussione che si è aperta sulla morte sull'uccisione di Adil, ho visto anche delle prime riflessioni serie sulla necessità di andare incontro, di non andare incontro alla repressione al modo di Genova, tanto per capirci, ecco. E di no, anche le osservazioni che faceva Sandro sull'assurdità di lasciare la gente lì come se non fosse successo niente, no? Durante il giorno si potesse stare lì, no? Senza aspettarsi. Quindi io ho visto delle prime riflessioni serie, e chiudo dicendovi una cosa messa in luce più volte da Aldo Milani, e cioè che inizialmente, fino a pochi anni fa, gli stessi lavoratori del Sicobas erano convinti che i poliziotti stessero lì a svolgere una funzione, non diciamo di sostegno alle lotte, ma semplicemente di così neutrale, affinché non succedesse niente di grave a nessuno, no? E però quasi quasi un certo numero di loro si aspettavano una certa benevolenza, diciamo, no? Poi via via l'esperienza è stata maestra, no? E adesso c'è una consapevolezza ben diversa, accumulata in pochi anni. ben diversa, accumulata in pochi anni. E quindi, diciamo, noi dobbiamo puntare sul valore dell'esperienza e anche tenere presente una possibile complicazione, compagni, perché la FedEx non ha usato soltanto la polizia al suo servizio e la polizia privata, la FedEx ha usato anche Miri, e dobbiamo sapere che, e quindi avere in mente, per questo dico l'importanza della politica, della strategia, della tattica, sapere che andiamo verso situazioni in cui la miseria, non la povertà, la miseria e la disgregazione sociale avranno forme più radicali di quelle di oggi. Se è giusta la nostra previsione generale, non so se è chiaro. E quindi che nella violenza controrivoluzionaria, come sappiamo nella storia del nazismo e anche in parte del fascismo, potranno essere coinvolti settori sociali anche del proletariato, i più marginali naturalmente, i più ricattati, i più... E in un caso erano dei bengalesi che picchiavano i lavoratori egiziani, ecco, ma non perché ci sia niente tra Bengala ed Egitto, nessun odio nazionale, ma una discrepanza di condizioni sociali all'interno dello stesso proletariato. Ecco, quindi teniamo conto che della complessità della violenza controrivoluzionaria nei tempi attuali e forse più nei tempi futuri. Ecco, tutto qui. C'è qualche altro intervento? Se non c'è nessuno, anche data l'ora, io voglio solo ricordare una cosa. Prima, nell'intervento che ho fatto, ho parlato dell'importanza che bisogna dare a mobilitazioni che si stanno creando come quelle legate al clima di Fridays for Future. Vi segnalo solo una cosa che merita una riflessione. A Milano, dal 28 al 2 ottobre, si tengono due cose, che sono la Youth for Climate il 28-30 settembre, ossia tutta una serie di giovani vengono portati dall'ONU per discutere del clima e fare una serie di proposte ai governi. Dal 30 settembre al 2 ottobre, sempre a Milano, si tiene il pre-COP, che è il COP, il Climate Open Climate Platform, o interventi per la piattaforma, gestita dall'ONU, che sono i lavori preparatori di questa conferenza COP, che si terrà, COP 26 si chiama, il primo 2 novembre a Glasgow, in Scozia. Allora, il movimento Fridays for Future ha indetto il cosiddetto Eco Social Forum a Milano e prevede di scendere in piazza il 1 e il 2 ottobre per portare le proprie proposte, per far sì che questo appuntamento gestito dall'ONU non sia la solita cosa che discutono tra di loro senza alcun cambiamento reale. Detto questo, non voglio dire altro, perché è stato detto moltissimo in questa discussione, secondo me, sollevando cose molto interessanti che rientrano tutte nella valutazione, nel bilancio, nei punti che vanno tratti da questa vicenda. Va bene, allora, se non c'è altro, tutti i punti che sono stati presi moltissimi di questi varrà la pena ritornarci, compreso l'ultimo di Francesco, che forse dovrebbe essere anche quello uno degli aspetti da seguire più di altri. E non lo so, se vogliamo chiudere e darci altri, a meno che non vi sia qualcun altro, ecco. No, io faccio solo una domanda molto pratica, Marco. Riusciamo magari alla Calusca in autunno a parlare del libro di cui ti ho parlato, magari insieme a qualcuno dei giovani ricercatori e autori che hanno partecipato? Quello del tuo, quello che hai curato, sì, tu. La guerra civile globale. Sì, sì. No, non c'è problema. Per il settembre... Ottobre anche, quando sì, è. Sì, sì, troviamo una data, non c'è problema. Se vi interessa, se interessa a voi. No, ma interessa anche perché era una rassegna mondiale di quello che ribolle nel mondo. No, sì. No, ci sentiamo. Va bene. Bene, salutiamoci. Dai. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Grazie per aver organizzato la cosa a tutti, grazie. Ciao a tutti. Grazie a tutti quelli che sono venuti. Grazie. Ciao. Ciao.